l'ho sposato perché lo amavo. Forse son poche a fare così le sue idee, erano le mie, casa, famiglia e figli, i figli che ti dicono che vivi, i figli che ti piangono se muori, i figli che non sanno dire grazie perché la vita non gliel'ha insegnato, i figli della colpa più innocente, i figli messi al mondo per amore, i figli messi al mondo con dolore, dolore che poi passa e non finisce. L'hanno chiamato i figli